settembre, ottobre e novembre i tonni piccoli che riescono a pescare e li superalimentano con i subacquei che li mandano là sotto a dare mancime a questi tonnetti, in modo che poi per Natale possano essere venduti questi tonni già grossi, dopo mesi di prigionia, possano essere venduti in Giappone a un prezzo esoso. È una cosa terrificante, no? Pensare a un tonno imprigionato, allevato come un pollo. Pensare, ecco, lei ha messo il punto nella piaga. Basterebbe pensare a quel pesce costruito per gli ampi spazi, costretto a muoversi in 50 metri per 30 di larghezza. Che cos'è che deve provare, povera bestia? Come ha cambiato, diciamo, la sua vita, il suo rapporto, sì, anche con gli animali, col mare, ma anche nel suo quotidiano, questa esperienza del cuore della cernia che poi immagino abbia scatenato una serie di altri ragionamenti. Certo, certo. Alla base del tutto, alla base della mia vita, c'è un credo, ed è quello di nonno arrecare sofferenze ai miei simili, e per simili intendo cani, gatti, buoi, pesci, uccelli e via dicendo. Regno animale, quindi. Regno animale, ma perché l'uomo che cos'è? È un animale, appunto. Assolutamente. Appunto. Infatti la nostra trasmissione si intitola Restiamo animali. Ma sì, ma è bellissimo. È bellissimo. Io tutte le sere, quando sono a Siracusa, quando siamo a casa, Maria ed io, Maria è mia moglie, quando siamo a casa, soprattutto nelle serate fredde, il nostro cane noi lo facciamo entrare in casa proprio per evitargli la sofferenza del freddo, anche se ha una cuccia super riscaldata, termica e via di seguito. Ma lui ci è grato e me ne accorgo dallo sguardo che ci dona ogni volta che entra in casa. E la nostra casa può essere considerata una sorta di comune per cani, gatti, donne e uomini. Tutti sullo stesso piano, con gli stessi diritti. Assolutamente. Dice, no, tu fai male. In molti mi dicono, tu fai male a trattare così il tuo cane. Per il semplicissimo motivo che il cane deve essere gregario e deve avere un capo. Ma a me non mi importa niente di essere capo. Io voglio che il mio cane viva bene. Ma questo succedeva in natura, prima che li addomesticassimo. Ormai sono passati talmente tanti millenni. Appunto. E che cosa pensa Enzo Maiorca della situazione degli oceani di oggi? È drammatica, signora. È drammatica e purtroppo non c'è nessuno che voglia, o perlomeno in pochi siamo rimasti, quelli che vogliono spezzare una lancia a favore del mare, un mare che io ho conosciuto come, diciamo, un forziere, mi consenta il termine, un forziere spalancato atto a mostrare i suoi tesori di luce. Questo era il mare di quando io ho cominciato a praticarlo, quindi diciamo di 70 anni fa, era un mare bellissimo, dove si incontravano tutti i colori del mondo. Era un mare bellissimo che sembrava la tavolozza di un pittore impazzito fra pennelli e colori. C'erano colori dappertutto, come se un pittore pazzo si fosse divertito non a mettere colori su una tela, ma a spruzzarli di qua e di là. Era un mare bellissimo, che naturalmente non tornerà più tale. E mi fa rabbia perché io questo mare ho avuto la possibilità di conoscerlo. Le mie figlie, Patrizia e Rossana, hanno avuto modo di apprezzarlo, però non come l'ho apprezzato io. I miei nipoti, no. Perché? Che cosa consiglia? Che cosa possiamo fare noi, singoli cittadini, ascoltatori, noi che vorremmo, diciamo, fare qualcosa in prima persona, attivarci a favore del mare, dell'oceano? Signora, sempre protestare. E ormai l'accettazione supina di ciò che i politici dicono non è più accettabile, perché, per usare un vecchio adagio siciliano, io lo dico in lingua perché venga compreso perfettamente, si sono presi il dito con tutta la mano e loro si sono presi anche il braccio. Ormai è passato il tempo delle finezze. Bisogna insultarli ovunque e dovunque si vedano, non solo. E quando loro ribattono, sei un qualunquista, oggi essere qualunquista è un titolo di merito. E che cosa dice a chi sta partendo per progettare vacanze con gommoni, motoscafi, certo, moto ad acqua, fucili acquatici? Cosa dice a queste persone? Che cosa dico? Che fortunatamente quello che la situazione economica del mondo ci sta riservando è la giusta punizione per i nostri eccessi. Grazie Enzo Maiorca. Grazie a lei, signora. Grazie per le sue parole e per carità, buon grazie proseguimento. Magari grazie, la richiameremo ancora in futuro. Grazie, con piacere. Tante grazie. Arrivederci. Arrivederci.